non solo un bel traguardo come, diciamo, anni di lavoro, ma anche come crescita, perché è una realtà che è nata molto molto piccola e che in questi 15 anni è cresciuta e che continua a crescere, quindi di questo siamo molto contenti e orgogliosi. Una realtà che non è come tutte le altre, perché porta avanti appunto progetti e idee molto particolari sul tema dell'autogestione, della sovranità alimentare, rispetto della terra, temi che molte persone avrebbero dato come perdenti, invece avete dimostrato che non è così. Infatti, tra l'altro, appunto, in questo periodo, come tutti sappiamo, i mercati contadini ne sono nati molti, però noi fin da subito abbiamo collegato appunto il tema dell'agricoltura con quello dell'autogestione, perché diciamo il nostro è sempre stato un impegno per la sovranità alimentare. Non si può avere sovranità alimentare senza autogestione nel settore dell'alimentazione, quindi non solo organizzare dei mercati, ma anche far sì che le persone si riapproprino del diritto sia di produrre che di mangiare. Per questo la nostra associazione è autogestita dai contadini, dalle contadine, ma è autogestita anche dai cittadini, è autogestita dalla comunità che si interroga e si dà delle risposte rispetto al tema del cibo e della produzione agricola. Allora, dicevamo, domenica questa festa come si svolgerà? Allora, innanzitutto, per forza non potevamo non fare un grande mercato biologico, che è la nostra specialità, e quindi saremo in piazza 8 agosto e il mercato aprirà alle 10 e avremo tutti i banchi dei produttori che adesso normalmente si trovano dislocati nei vari mercati che noi organizziamo già a Bologna, invece quel giorno saremo in piazza tutti insieme. Insieme al mercato abbiamo invitato le associazioni e i gruppi informali di Bologna che abbiamo incontrato in questi 15 anni di attività, che ci hanno accompagnato e che ci hanno sostenuto, e li abbiamo invitati a essere presenti in piazza con dei banchetti informativi. Sempre in mattinata ci sarà una sorta di microfono aperto con i racconti dai campi, in cui contadine e contadine racconteranno la loro storia, perché molto di quello che succede in campi aperti a Bologna non si vede, si vede il risultato di un percorso, però non si vede tutte le vite di contadine e contadini che sono dietro a quei percorsi agricoli, e noi speriamo di riuscire domenica a raccontarveli. Nel pomeriggio invece ci sarà un'assemblea cittadina per la difesa del territorio, in cui abbiamo invitato tutte le realtà che in questo momento si stanno muovendo, diciamo, contro l'apertura di nuovi supermercati, contro la cementificazione, contro la speculazione. Ci sarà appunto un'assemblea per vedere se si riescono a creare in quell'ambito delle sinergie intorno a questi temi che ovviamente noi sentiamo molto vicini. Quindi, diciamo, non è solo un'occasione per festeggiare, ma per guardare anche al futuro. Assolutamente, sicuramente sì. Appunto, oltre alla fine, diciamo, di questa assemblea, in cui appunto da cui speriamo che sia un'assemblea che segna l'inizio di un nuovo percorso con nuove alleanze in città, e faremo anche sì momenti di festa, il taglio della torta dei 15 anni di Campi Aperti, e che speriamo sì che voglia dire anche un po' un augurio per un inizio anche con maggiori collaborazioni con le realtà cittadine.